revolution. No, no, no, no, no, no, no, no. Waiting bad habits, religious fanatics, closed-minded and ass backwards. We fill our vehicles with premium gas, but fill our bodies with McDonald's and all other kinds of crap. We've been manipulated by the minds of the masses, believing what is told and follow without asking questions. I'm demanding to know some answers. I'm looking for a reason to live. Goddamn these people with the money and the power, 'cause they can fight for world peace. Instead they sit around like cowards. The majority of record sales come from teens, 'cause they don't know what's better than what's on MTV. That's why that whack is got rich, a pretty face with no integrity. That punk trick is not the only one, only using her as an example. I say it like it is, some say it's too much to handle, but if you recognize real, we can rise together. Earth is on bullshit, just gotta be a place that's better. Not in the physical, it lies in the spiritual. I'm still learning about it, and it's truer than Jesus. Word up. As long as there's religion, we will never be free. I say as long as we're divided, we will never be free. They're the reason why there's war, famine, disease, and poverty. True love is universal unification. The music we're making is used to influence the nation. We're taking baby steps, one situation at a time, finding light even in the dark of night. Sure as the sun rises, sure as the moon falls. Open palm to anybody that spreads love and raises consciousness. Man, it's obvious we need more of it in every continent. Politicians still bombing kids, and more often than not, they make a profit in. Martin Luther King did not die so black people could do a dig. Malcolm X wasn't shot so rappers could flash their gold teeth. Past revolutionaries turning in their graves. Our generation isn't walking down the path that they paved. It's a lesson to learn. Still, I gotta spread it till I'm resting in the urn. Blessing in return, huh? Tell me, brothers, why you mad at me when I'm exactly what you want your kids to be? See, I'm a real one, and I'm standing on my own too. To find freedom, and there's nothing that I won't do. Bentornate ai microfoni di Radio Wombat, quest'oggi assolutamente in diretta, diretta vera, nel senso che sono in una vera Wombat regia per la prima volta dopo, penso, 2 mesi e mezzo o più, e non sono nella mia regia casalinga, ma nella Wombat regia che sono solito usare. Quella che sta al freddo freddo freddo l'inverno e al caldo caldissimo l'estate. In questa stagione ci si riesce a sopravvivere, vediamo come continua. Comunque, appunto, sono fuori casa e quindi già sono contentissimo di questa cosa. È sabato 23 maggio e per oggi vi ho preparato alcuni approfondimenti che nascono un pochino da una proposta che è uscita nel Wombat collettivo di dedicare una serie di speciali puntate tematiche alle questioni dei siti e le app, le piattaforme di incontri online. qualcosa che probabilmente è nato in quel della quarantena, e io oggi volevo affrontare nello specifico un tema abbastanza preciso, che è sostanzialmente chi fa i soldi su queste cose, e lo farò analizzando essenzialmente due grossi gruppi, due grosse non solo piattaforme, perché poi come vedremo le piattaforme famose spesso nascondono gruppi che dietro hanno tante piattaforme più piccole, nel tentativo estremo di diversificare l'approccio, cercando di appunto andare a colpire, scusate la parola colpire, già denota un mio particolare visione della questione, però non immotivata, come vedremo, nel senso che queste singole app fatte di gruppi grossi, molto grossi, e vanno poi a diversificare il loro approccio, quindi a fare siti diversi, spesso in base a particolari diciamo particolari sfumature, no? Che possono essere sfumature a livello di gusti sessuali, sfumature a livello di gusti estetici, o sfumature a livello di gruppi sociali diversi a cui si rivolgono, o anche di scopi leggermente diversi. Cioè, sono magari quelle piattaforme che sono più esplicitamente dedicate a trovare un partner sessuale, e altre che invece sono più dedicate a trovare un appuntamento, una persona con cui uscire, incontrare, non necessariamente per scopi meramente sessuali. E la questione, il punto di tutto, secondo me, era l'osservare come, almeno questa è la mia linea, sarà la mia linea di lettura, come il capitale, i grossi capitali, riescono a cavare da queste cose qua un sacco di soldi. Cioè, dal mettere come capitale, mette a frutto le esigenze relazionali delle persone. E per iniziare la puntata, ecco, volevo aprire con una delle piattaforme abbastanza più note, che è Tinder. Ebbene, Tinder appartiene a un gruppo ben preciso che si chiama Match Group. Questo gruppo vede non soltanto il sito di Tinder, che è un po' quello che è emerso, ma ce n'ha tantissimi altri, ve li elenco. E li ho presi da un elenco dei siti proprietari, appunto, di questo Match Group, quindi non so se è aggiornatissimo, e non so se tutte queste piattaforme sono ancora attive, però sicuramente ha posseduto, e forse ancora possiede, anche blackpeoplemeet.com, chemistry.com, delightful, friendscout24, Hinge, How About Me, poi vabbè il dominio match.com, poi Meeting Group, e poi OK Cupid, Our Time, People Media, Plenty of Fish, Tinder e Tu. Ora non so se tutte queste sono dedicate esattamente ai siti di incontri intesi come uno intende Tinder, no? Penso di no, che a sfumature diverse alcune siano più o meno targettizzate. Alcune hanno, ad esempio, una già dal nome si capisce, Black People Meet, sembra fare riferimento a un gruppo sociale ben preciso, e altre strizzano l'occhio più al meccanismo di romantico, cioè OK Cupid sa un po' di mi innamoro, no? E insomma, che è già una sfumatura un pochino diversa. Ma la cosa interessante, secondo me, è che appunto un singolo gruppo possiede 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 piattaforme almeno. E per questo perché? È perché quando io mi metto a fare questo lavoro devo massimizzare in qualche modo i miei guadagni. Si capisce bene, se voi guardate, il Match Group è quotato, lo trovate facilmente le sue, l'andamento delle sue, il suo andamento azionario, perché è quotato nell'indice Nasdaq, quindi che è quello dell'indice, diciamo, tecnologico, delle tecnologiche americane. Da lì potete vedere che da quando nasce questo Match Group, fa all'incirca un raddoppio praticamente nel giro di pochi anni, cioè se guardate l'andamento degli ultimi 5 anni delle loro quotazioni, loro partono da una quotazione bassa, tipo $20 nell'inizio del 2016, diciamo. Al 2020, a fasi un po' alterne, insomma, però è tutto in crescita sostanzialmente. E chiudono adesso a $85 a ieri. Significa che hanno fatto un bel pochino di soldi. E uno si dirà quanti? Se guardiamo i loro bilanci, si vede bene che dichiarano di un bilancio per il 2019, no, per il 2018, cioè i dati, di 2,1 miliardi di dollari in totale. E nel 2019 non ho i dati, però il loro market cap, cioè diciamo quanto viene valutato sul mercato azionario, è una roba che si aggira intorno a un po' meno di 16 miliardi di dollari. E non stiamo parlando di bruscolette, considerato che alla fine questi quello che fanno è sostanzialmente prendere le persone, metterle su una piattaforma, poi tendenzialmente le profilano e poi tentano di consigliarle l'un l'altro, farle conoscere, eccetera, così. E quello è il loro core business, non è che fanno più di questo. Come fanno tutti questi soldi? Allora, nello specifico di Tinder, ad esempio, loro spingono molto su l'upgrade dell'account free, perché c'hai una serie di vantaggi. Il primo è che non ti succhi le pubblicità e loro lo sponsorizzano molto per questo, non avere le pubblicità. L'altra cosa che ti danno è sfruttare meglio l'analisi dei dati con cui profilano gli utenti. Quindi il loro core business è prendere gli utenti, profilarli e poi rivendere ad altri utenti disposti a pagare di più dei meccanismi che rendano le ricerche di relazioni dentro a Tinder più efficaci. Essenzialmente questo fanno. Erano stati anche all'interno di una polemica con un risvolto legislativo qualche tempo fa perché sostanzialmente sostenevano che loro favorissero gli account premium, lasciando sostanzialmente dei finti annunci, no? Cose un po' non vere sostanzialmente, che filtravano soltanto negli account a pagamento. Quindi diciamo che l'account free poteva funzionare o non funzionare, e ci stava anche che tu avessi a che fare proprio con degli ads, delle cose messe ad hoc o dei profili più o meno fake, mentre invece, diciamo, l'incontro di più di qualità te lo davano solo se cacciavi i soldi, e questo è un pochino quello che gli è stato attribuito. Loro hanno registrato dicendo: no, ma sia, figurati se ne facciamo così. E un'altra cosa interessante è che questo Match Group fa parte di una grossa holding che è la Interactive Corp. L'Interactive Corp copre un po' di tutto, tipo di Interactive Pork, co sì, Pork. Di Interactive Corp fa parte anche Vimeo, per darvi un altro nome molto grosso. E quindi si capisce bene che dietro a queste cose c'è in realtà una cordata di compagnie enormi, in particolare di compagnie enormi che investono un sacco di soldi nella rete e che della rete fanno il loro business principale. E questo un po' dà un'idea, tipo di nel momento in cui uno decide di utilizzare questa piattaforma, di chi c'ha dall'altra parte, altrimenti potrebbe non essere troppo ovvio. Prima dice, vabbè, è una roba di incontri, sì, mi fregano con le pubblicità. Ho detto, ok, però quanti soldi ci fanno poi su quel tipo di utilizzo? Cioè, uno si potrebbe dire, quello che ci guadagni te vale quello che dai a loro, considerato che magari paghi anche. Non lo so, e qui ognuno poi valuta, ognuno poi fa le sue valutazioni del caso, e vabbè, io comunque ve l'ho detto. Ora vi lascio con un altro pezzettino musicale, perché la seconda, diciamo, cosa che andremo a analizzare è una piattaforma concorrente, che è quella, diciamo, il gruppo che sta dietro a Badoo. Perché così abbiamo visto, diciamo, quelle più famose, ecco. E poi per la nostra analisi di questa sera, io mi fermerei anche qui, cioè nel senso che poi cambiamo argomento, però almeno queste due, quelle grosse, ci tenevo a farle perché hanno dei guadagni grossi, grossi, e quindi era interessante anche capire, ok, ma quanto ci si guadagna, cioè chi guadagna da queste cose e quanto guadagna da queste cose, che non so, quattro spiccioli, come avete potuto vedere. Quindi un pezzettino di musica e poi torniamo con la seconda parte di questa analisi su Badoo. Ancora, anche in regia vera, comunque, mettere la musica non mi riesce ancora bene, perché non sono più abituato, ormai ho difficoltà a fare tutto. Fabrics and wash them, then you go pick the cotton. Listen, y'all, I'm tired, man, I swear. For so long, trying to be strong, but yo, I'm exhausted. My feet hurt, wanna run no more, wanna run no more. They said, when? When? Ain't nothing changed, except the chains ain't restraining our physical frame. Mentally, we still living the same, it's lockdown. They knock down the towers to raise tax. Anything they borrow, we pay back. I live in a hood, you'll never bump in the back, say Jack. But we spin a wheel every time we chill. Cops hate blacks and Hispanics, they draw gas and just slam it before they ask for your hand. I don't see how a wallet could be mistaken for a cannon. So please don't let them play us no more. In every way, I'm ready, willing, and able to war. Like any day now, it's a pop, I'll be in the front like what? Please may the force be with me in this punch. Housing want me to work, cause I'm still in my mom's lease. Threatening to raise a rent if I don't pick up some park lease. Ain't nothing in this world for free, nah, but somehow they got us fooled like this world is free. This is modern day slavery, you see? Carry ID, water is a fee. This ain't how it's supposed to be, man. For so long trying to be strong, but yo, I'm exhausted. My feet hurt, wanna run no more, wanna run no more. They said, when? When? Our people are the product of genocide and slavery. Everything in the ghetto is how it was made to be. Design and the process, prison industrial complex. Niggas transformed into numbers and objects. We pay the devil rent for living in hell, cause the projects was built on the spot where Lucifer fell. Incarcerated knowledge heavyweight. Every black man should read Deuteronomy chapter 28. Cursed in the city like we cursed in the field. Cursed on the border and cursed by the new world order. Our sons and daughters were stolen by another people. Yoke of iron, end of the earth, land of the eagle. This is the sequel to the prophecy. Freedom, whether peaceful or violent, is my philosophy. I built an army, now I'm gonna build a nation. The foundation of a new civilization and overthrow the plantation. Modern day slavery, see, it was designed to be Patriot Act 3. Just wait, young nigga, you'll see. So long, my people been so strong, but yo, I'm exhausted. Get up, my nigga, heart hurts. I'm cutting no more, I'm cutting no more. We gotta make up, yeah, we gotta make up, yeah. Quick motherfucker, yeah. Immortal technique, Joel Ortiz, yeah. Harlem, Brooklyn, you know what it is, nigga. The rebirth for the young lords, coming soon, motherfucker. We young lords, nigga. You sleep and you die, nigga. Good night, motherfucker. rieccoci in diretta. Si diceva appunto di Badu. Allora, Badu ha una storia meno lineare rispetto a quell'altra, nel senso, quello è un frutto alla fine di un grosso gruppo di investitori, che è quello che è diventato un grosso gruppo finanziario. Badu non nasce in America, nasce in Russia. O almeno l'idea il creatore di Badu nasce in Russia, il gruppo, cioè vediamo l'azienda, poi in realtà ha sorti diverse, comunque nasce da un tipo che si chiama Andrei Ogans, oddio, difficilissimo, c'è anche un'abbreviazione il suo nome, però c'è un'abbreviazione, cioè c'è un altro cognome, perché forse il suo era troppo difficile da pronunciare, quello russo, ed è Oganzanyans, sì, dovrebbe essere una cosa del genere, Oganzanyans, insomma un nome difficilissimo, che era un giovinastro col pallino della rete, che ha iniziato a fare soldi, ha iniziato a creare in realtà software dedicati alle questioni di diffusione degli ads o cose simili su internet. E poi oltre a Badu, che è la sua creazione più famosa, aveva fatto anche Mamba, che è sempre una piattaforma di incontri che va forte in Russia. La prima serie di Badu fu a Cipro, chissà come mai, perché forse sì, non lo so, una sede di comodo per legislazioni e tasse favorevoli, credo. Cioè, una roba del genere, se no perché uno sceglie Cipro se poi non ci vive? Cioè, lui ha vissuto in Russia, poi pare si è trasferito in Spagna, tendenzialmente non aveva che grossi affari a Cipro, credo. E nel 2016 però decide di spostare la sede a Londra, che è dove sta adesso. Su questo spostarsi, anche iniziato a pensare di quotarsi in borsa, ma ha deciso che prima di arrivare alla quotazione in borsa forse era meglio vendere. Penso che come molte delle cioè nella migliore storia delle Silicon Valley, l'idea, io c'ho l'idea, creo la piattaforma, riesco a farmela quotare sul mercato dei grossi investitori, no? con un discreto valore, che lui dice più o meno Badu vale quanto Tinder, ora forse vale qualcosa meno visto che non l'ha venduta a una cifra pari ai 16 miliardi di dollari che avevamo citato prima per Tinder. Però tendenzialmente una delle opzioni è: uno, mi faccio quotare in borsa, quindi tento di guadagnare anche dal mercato finanziario; due, vendo la mia idea, chiappo i soldi e scappo. Anche se non scappo, comunque chiappo i soldi, diciamo, monetizzo. Ebbene, a chi l'ha venduta? L'ha venduta al Blackstone Group. Che cos'è il Blackstone Group? Ebbene, è un gruppo nella quale è una figura di spicco, questo Steven Schwarzman, che infatti, se andiamo a vedere nell'equivalente della Camera di Commercio inglese, è il nuovo AD di Badu, nel senso che quell'altro se l'è venduta, il signor Andrei, se l'è venduta, mi sembra, per 3 miliardi di dollari, sì, credo, non sono sicurissimo, dovrei verificarlo, ora non mi ricordo bene, e quindi il nuovo AD risulta lui. È una roba perfezionata quest'anno, cioè nel 2020, cioè mi sa che è venduto nel 2019, ma tutti questi passaggi burocratici di cambiamento della gestione del gruppo, cioè dell'azienda, fanno riferimento al 2020. Allora, chi è questo Schwarzman, e che cosa fa questo Blackstone Group? Beh, lui è un businessman classico, un americano, ecco, e ha orientamento repubblicano, ha lavorato nell'entourage in qualche modo vicino a Trump, e quindi quel tipo di businessman americano, e quindi questo era per darvi un in qualche modo un inquadramento di chi poi possiede queste cose anche da un punto di vista di orientamento politico, se può essere interessante. Il Blackstone Group è un altro gruppo che assomiglia a quello che vi ho citato prima, cioè lo IAC, è un gruppo che fa parte, cioè del quale fanno parte una grossa serie di aziende legate alla comunicazione e similari. È un gruppo di quelli storici, cioè esiste dagli anni 90 e poi va avanti nel tempo fino ad oggi, e ora si è comprato pure Badoo perché avrà pensato che gli mancava qualcosa magari per poter competere con quegli altri, con l'IAC, e tant'è. Badoo è stato all'interno di una polemica fatta da alcuni ex dipendenti che denunciavano l'atteggiamento estremamente misogino e sessista dell'ambiente di lavoro, il che può anche essere una roba interessante, nel senso che chi costruisce le proprie fortune sui meccanismi relazionali probabilmente trattandoli come merce, evidentemente funziona meglio il meccanismo per cui a meccanismo relazionale associo diciamo il mio guadagno, no? Quindi se funziona tette e culi, tendenzialmente preferirò tette e culi. Se funzionava più un'altra cosa, funziona, mi gioco quell'altra cosa. Questo per dire che comunque il fatto che dietro ci siano dei grossi interessi finanziari fa sì che tendenzialmente il mezzo non sia esattamente il migliore per diciamo una certa quantomeno neutralità d'approccio nella bontà del meccanismo relazionale. Cioè il mezzo già parte con un grosso handicap, perché io tenderò a farti fare quelle cose e a permettere di farti fare quelle cose o ad impostare il tuo utilizzo della piattaforma nell'ottica di massimizzare il mio profitto, quindi non nell'ottica di aiutarti nel trovare delle relazioni, ma il mio meccanismo sarà quello di avere dei clienti soddisfatti, dei clienti paganti soprattutto, e quindi tendenzialmente cercherò di costruire le cose in questo senso. Anche Badoo infatti ha degli account free e poi degli upgrade, cioè tu puoi pagare. E perché paghi? Beh, pago perché ad esempio i miei annunci siano visibili più di quelli dell'account free. Quindi tendenzialmente tento di massimizzare la mia possibilità di approcci, e questo è un po' come funziona questo mondo. Questa azienda appunto è più secondo me rappresentativa forse di quell'altra, anche se cioè c'ha dei personaggi, cioè della non rappresentativa, diciamo, è più rappresentativa nella visione negativa rispetto a quell'altra, perché si sanno vendere meno peggio, si sanno vendere peggio. Cioè il fondatore, anche quando si presentava al pubblico, era il classico dandy, un po' giovane, arricchito, un po' strambo, un po' sfacciato, un po' arrogante, un personaggio un po' così. E quindi incarnano l'anima, quella più immediatamente gretta della questione. Quegli altri sembrano l'anima, quella un po' più smart, un po' quella yeah, così, che alla fine sembrano un po' i Google della situazione, no? Cioè alla fine facciamo soldi ma non facciamo niente di male per fare soldi. E poi ognuno su questa roba qua ci aggiunge, cioè una volta capito con chi si ha a che fare, ognuno poi si regola a propria coscienza o ragionamento politico o ragionamento critico in generale, o anche nessuna di queste cose qui, ma è uguale, però almeno uno lo sa. Cioè quegli altri non ti stanno facendo un favore. Il servizio è gratis perché quello gratis tendenzialmente sperano che fai l'upgrade, quindi sarà sempre un po' più schifo di quell'altro, e l'ottica è quella che loro fanno tantissimi soldi. E questo è come gira un po' il mondo, e non è solo una roba chiaramente di legata a questo tipo di mondo, no? Cioè quello delle piattaforme di incontri. È un po' il ragionamento che si ritrova in gran parte delle grosse piattaforme delle reti, e in generale lo vedremo anche nella prossima cosa, che nel prossimo argomento che trattiamo, che sarà sempre un'app non specifica sugli incontri questa volta, però vedremo che l'atteggiamento è sempre un po' quello di costruisco un business su qualche tipo di bisogno o relazionale, in qualche modo legato ai corpi. È interessante anche il fatto di queste app di incontri, perché mettono molto più di altre questioni della rete la centralità sulla fisicità e sul corpo, e molto in più di altre, secondo me, c'è la forte sensazione di diventare merce come corpo. Non so se riesco a rendere perfettamente l'idea, però secondo me non mi inerpico a spiegarla meglio di così, perché penso che si intuisca meglio solo così. Cioè al centro della loro attenzione ci sono dei corpi, e da questi corpi loro ricavano un sacco di soldi, e nello specifico ricavano un sacco di soldi dalle relazioni che questi corpi decidono di avere tra loro, e questo per me è qualcosa di un poco strano, quantomeno. Quindi vi lascio un altro po' di musica e poi torniamo con qualche nuovo argomento. KRS, Big Zach, you know the rest. Now we gon' come down like this now. Hold tight, all crew. This voice shatters the calm of the day like an alarm. So wake up, brand new, and take up arms. Cause more is necessary than vocabulary war. Cause a toxic rock imports hitting on your door. CIA, I see you later. Cause your time is coming soon. I flip this shit like Pacino and it's your dog day afternoons. Attica. Drunk agents, you bring your statica. My alphabet will slash and they can flip you. Automatica, dramatic, like Ali Shaheed Muhammad brought the vibes. I bring the sun at red dawn upon the thoughts of false Bernard. So stand in attention, devil dirge. You never survive choosing sides against the wretched of the earth. The infiltrator, child intoxicator, people incarcerator, liberation movement annihilator. We got you clock pushing rocks in the fair. We got brothers trooping subways like the Ho Chi Minh Trail. We got the truth at it. Last emperor KRS in history manifesting. Tomorrow the next lesson. The brain on selling crap, but you be doing that. Market capitalism and technology expands. The third world's fertile soil becomes a desert wasteland. So it takes fans to demand the government provide answers. When Lady Liberty has me bewitched like Samantha. And poverty is one of the most malignant forms of cancer. To all my black magic romancers and acid rain dancers. Develop close ties like Jerry Seinfeld and George Costanza. We fear no man and throw jams that attack counterintelligence programs. Exciting like the epic adventures of Conan. I colonize minds like Zaire by the Belgians. Now what the hell is the problem with this system and what it sells us? I bring ancient relics like Wyclef did the Zealots. I saw an iron curtain called hip-hop and got it open like Boris Yeltsin. Whirlwind, tornadoes, and the rainforest if you say so. KRS and the last of a roar like the Green Hornet and Kato. Zach De La Roca brings the enraged flow. But all three drop science and become the most powerful alliance since NATO. just plan on selling crack. But you be doing that. But you be doing that. You know the cops, they got a network for the toxic rock. But you be doing that. So get that flashlight out of my face. You claim I'm selling crack, but you be doing that. The last ever killer is warning Big Zach. Need I say the CIA be criminals in action? Cocaine crack unpacking, high surveillance tracking. Prominent blacks and whites giving orders for mass slaughters. I want all my daughters to be like Maxine Waters. When they flooded the streets with crack cocaine, I was like Noah. Now they lower, cause the whole Cold War is over. Communism fell to the dollars you were grabbing it. Only assault and battering in the name of intelligence gathering. Now it's karma you battling, a losing fight. I choose the mic to recite, ignite light in the night. We should beat them. President Clinton should delete them. It's not hard. The CIA simply has no more job. Oh my God, it's mother. You can fix this. We rock over mixes, not 666s. Yo, this is the message to all that can hear it. If you got secret information, now's the time to share it. Call your congresswoman, your senator, your mayor. It's time for all the scholars to unite with all the players. Rearrange and see, times are definitely changing, G. They used to tap the phone, now they tapping while you're paging me. It's crazy, B. Yet it's plain to see. Who the enemy? Who's left? The NRA? The ATF? The AMA? Okay, okay. It's all irrelevant. Cause in the new millennium, there'll be no central intelligence. Throw your hands up. You know what's up, kid. Throw your hands up. Rieccomi, mi stavo quasi per distrarre e non riprendere sperando che partisse un altro pezzo che non sarebbe partito, perché oggi, felice appunto che sono nella nuova regia, i pezzi li metto uno alla volta e selezionatissimi, cioè non faccio più come gli altri giorni che buttavo lì quello che c'avevo a casa, perché poi me l'ha preso l'uggia e il tedio, non avevo neanche più voglia di scaricarmi la musica o mettere i vinili come facevo all'inizio. È così perché comunque i due mesi di insomma il lungo lockdown dopo un po' ti lasciano appunto abbruttito e quindi oggi invece che posso stare di nuovo in diretta in una regia vera, sto mettendo addirittura della musica quasi selezionata. Male, perché appunto poi c'ho anche la cosa del lockdown che mi ha reso un po' inebetito e lento nelle reazioni al mondo proprio, e quindi ci metto un sacco a fare tutto, e quindi è per quello ogni tanto lascio i buchi, mi parte il pezzo tardi, faccio casino. Sarà così ancora per un po' di tempo, poi darò la colpa al caldo al posto del lockdown e poi alla fine forse al freddo. Prima di ammettere che in effetti sto un po' rincoglionito, ma sarà l'età e poi do la colpa all'età, va bene. E, dunque, volevo proporre una lettura con poi piccolo approfondimento per capire quello che si stava parlando, perché quando l'ho letto ho detto ma guarda cosa scrivono questi, però non so assolutamente di che cavolo stanno parlando e quindi mi sono interessato. Ci sono due consiglieri comunali, anzi una consigliera e un consigliere, che sono Dimitri Palagi e Antonella Bundu, che hanno fatto un comunicato su delle tematiche che abbiamo già trattato in questa trasmissione, quindi ve lo volevo leggere e poi approfondirne un pezzettino di una parola che hanno usato, che riguarda appunto un'altra piattaforma, non questa volta di una piattaforma di incontri, ma una piattaforma di vicinato. E ora vi leggo il comunicato e poi lo commentiamo assieme. A telecamere con riconoscimento facciale, gruppi WhatsApp ufficiali per il controllo di vicinato, droni nell'aria per monitorare il territorio, smart city control room e tante innovazioni per avere a Firenze un grande fratello buono, per citare le parole del sindaco. Magari un giorno avremo nella nostra città anche la sala della giustizia dei super amici, che sono Superman, Batman e compagnia, o il palazzo dei vendicatori con Thor, Iron Man e compagnia. Invece questa citazione fumettistica un po' dotta, che proprio divide super amici e vendicatori, bello gli universi, mi piace. Nel frattempo ci dobbiamo accontentare forse di molta retorica e leggerezza sul tema della gestione dei dati. vale anche per il caso di Nextdoor. Si tratta di un'applicazione che permette di costruire una rete nel proprio quartiere con la quale contrastare anche sentimenti di paura e insicurezza. Viene promossa nella nostra città con volantini privi di riferimenti specifici. Si viene solo informati di quante centinaia di persone fanno già parte della comunità. Uno dei cofondatori di Nextdoor è stato ospite nel Salone dei 500 dell'evento gratuito organizzato dalla Stanford University a settembre dello scorso anno, quando la maggioranza ci accusa di alimentare polemiche senza fondamento per via della loro ossessione per le polemiche fondate. Questa era una frecciatina alla loro maggioranza. Comunque, abbiamo chiesto alla giunta spiegazioni su cosa sappia il governo locale di questo servizio. Pare nulla, perché non risultano rapporti tra il comune di Firenze e Nextdoor, che però li ha ospitati però all'interno della Stanford University, perché poi vedremo che il fondatore è uno della Stanford University, che però distribuisce i suoi volantini in diverse zone della città ormai da mesi. Chi ci governa ritiene di non doversi nemmeno esprimere su un tema così delicato e un'applicazione così invasiva, evidentemente. Un silenzio e una tarassia che in politica fanno male. Comunque è chiaro che il turismo è la principale speranza di rilancio per l'economia locale. Secondo alcuni esponenti del Partito Democratico, quindi immaginiamo che l'esperienza di sopravvivenza in una città alimentata paranoia e controllo possa essere quel tocco in più che il brand Rinascimento o non riesce a garantire in tempi di pandemia. Jena Plinsken è un personaggio cinematografico impegnato a fuggire da New York nel primo film, da Los Angeles nel secondo. Era fuga da 1999, fuga da New York, se me lo ricordo abbastanza forte, Jena Plinsken. Sì. Dopo Six Underground, possiamo sperare in 2020 fuga da Firenze? E così chiudono con due citazioni, due da fumetti e una anche e due molto dotte i caposaldi della cinematografia anni 90 e successivi, e la cinematografia di fantascienza distopica post-apocalittica. Comunque Jena Plinsken è una grandissima citazione, secondo me. Comunque volevo parlarvi, in realtà, a parte aver letto a fatica questo comunicato, ma tenete anche conto del fatto che inizia a fare caldo e qua nella Wombat Regia fisica iniziano ad esserci tipo 35 gradi anche con la finestra aperta, perché appunto è quella che fa freddo freddo l'inverno e caldo caldo l'estate, e così è. E vi volevo parlare appunto di questo Nextdoor, perché ho detto: ma di che cavolo stanno parlando? Perché evidentemente io non ne sapevo niente. Poi appunto, non bazzicando spessissimo probabilmente i luoghi nei quali questi distribuiscono i volantini, per me sono un cazzo io di che è sto Nextdoor. E ho capito cercando un pochino in rete che si tratta di una sorta di social gestito con una comodissima app dedicato essenzialmente ai rapporti di vicinato, con un particolare occhio alle questioni commerciali. E come funziona? Tu ti installi l'app e entri a far parte di questo gruppo in cui uno specifica, diciamo, la zona di cui è interessato, e poi c'hai la chat, c'hai cerchi ferramenta, zac, eccolo qua, cerchi il panaio, eccolo qua, poi se il panaio fa l'offerta speciale a te ti arriva sul coso delle news, e oh guarda, c'è il panaio fa l'offerta speciale, così. Che sembrerebbe una roba anche dire, cavolo, però allora è utile. È utile. Ma come vivere nel quartiere? Cioè, se già ci stai, sei proprio sicuro che ti serve l'app per relazionarti col tuo vicino? Cioè, se non gli parlavi prima, perché gli vuoi parlare attraverso l'app? O se non gli parlavi prima, era perché non c'avevi l'app per farti conoscere il ferramenta che c'hai sotto casa? Però al di là di questo ragionamento, il problema è che molto, molto spesso questi social network hanno un atteggiamento un po' poco attento rispetto alle informazioni che possono fornire. Per esempio, cioè, è molto evidente che il commerciante ha un interesse nel far parte di questo social network, Perché? Perché può fare una pubblicità molto mirata e può conoscere, ad esempio, i luoghi dove vivono le persone. Quindi se devo organizzare, che ne so, un volantinaggio in buca, una cosa o l'altra, può in qualche modo cercare di mirare nella profilazione che questo tipo di social ti permette, questo social di vicinato ti permette, che cosa può interessare, dove andarlo a fare, le zone in cui è meglio investire. E questo è dal lato del commerciante in dubbio. Dal lato del cittadino, cioè di chi si segna su questa roba qua, avrei qualche dubbio in più. Nel senso che cosa ci ricavi, ma soprattutto quanti dati gli dai? Perché loro dicono di essere una piattaforma privacy by design. Però privacy by design, io ho guardato un pochino le robe, ma loro ti permettono di inserire dove abiti, cioè l'indirizzo. Cioè io sto mettendo su una piattaforma pubblica dove abito, con tanto della la cosina proprio che mi localizza. Cioè in più la possibilità appunto che ci sono le chat, quelle, ci sono le cose pubbliche, no? Cioè, e quindi inizia un po' a essere, cioè, tu sai già un sacco di cose di me, cioè so dove abito, cioè sai dove abito, e uno dice è perché è l'app di vicinato, è giusto, no? Per carità. Infatti però che è successo? Che ad esempio negli Stati Uniti hanno avuto un po' di casi in cui questa app veniva utilizzata da gruppi di bulli per andare a mirare i propri target, che così facilmente vedevano vedevano dove uno abitava e lo andavano a prendere direttamente a casa. Cioè privacy by design secondo me non significa che te mi dai la possibilità di non mettere il mio indirizzo, ma di metterlo solo se voglio. Cioè significa che te non me lo chiedi il mio indirizzo. Cioè te che fai di tutto per in qualche modo anonimizzare il dato. Per me questo è privacy by design, però magari lo capisco male io, cioè sono io. Cioè, per me non significa che l'indirizzo non me lo fai mettere per forza. Questo non è privacy by design. Cioè, e significa solo che se mi chiedevi l'indirizzo per forza e marcava male, chi cazzo te la installa l'app? Cioè, se però poi mi permetti a me di metterlo, cioè stai giocando un pochino sui termini della questione, posto che io posso fidarmi a mettere il mio indirizzo nel momento in cui entro a far parte di questa comunità, diciamo, virtuale, che poi è legata al mio quartiere, e quindi io mi fido, dico, vabbè, però ci sono già, c'è la signora Pina, c'è il signor Mario, c'è tutti quelli là, io già li conosco, che problema c'è a dirgli dove abito? E nessuno. Il problema è che se poi arrivo io, capito, che non mi conoscete, io gli indirizzi li vedo di tutti, della signora Pina, di Mario e anche di quello che è la me. E quindi nel momento in cui questa roba non è una cosa che è un gruppo chiuso, cioè non è che è il quartiere che ha deciso, oh, mettiamo su una piattaforma che poi ci gestiamo noi tra amici, perché nessuno fa questo tipo di iniziative, e in qualche modo è legata anche alla conoscenza fisica, per cui io so chi finisce di sopra, e allora magari posso prendermi più libertà nell'utilizzo della rete. Ma si sta parlando di un'app che viene sponsorizzata con volantini, dice installatela, e allora chiunque la può installare, e poi di quei dati in che modo vengono tutelati e trattati, e non è molto molto chiaro, anche perché comunque appunto si tratta di dati sensibili, cioè nome, cognome, l'indirizzo, cose di questo genere. Da qui si capisce probabilmente anche il comunicato. Ve l'ho detto anche perché appunto al fondatore di questa roba qui, che è in qualche modo legato alla Stanford University, non mi ricordo più se perché è insegnante o studente, non me lo ricordo, non c'ho la pallida idea, Firenze è piaciuta un sacco, nel senso che lui proprio, se mi sa che si è fatto proprio un anno qua a studiare la comunità locals. E quindi magari poi chiaramente avrà trovato qualche partner da fare, avrà provato a espansione, avrà trovato degli amici qua che gli vanno a dare volantini, non lo so io che ha trovato, però insomma se vi danno un volantino di questa Nextdoor, sappiate che è questa roba qui da prendere con le pinze. Io non l'ho neanche provato a installare, quindi non vi so dire se potreste avere dei veri vantaggi nell'utilizzarlo o no, eccetera. Però uno deve sempre sapere la domanda a base, cioè il ragionamento che sta alla base di tutto. Alla fine, chi ci guadagna da questa cosa? Perché me la vogliono far installare? Perché mi dicono che è gratis? Che cosa mi dà? Che cosa non mi dà? Quali sono i termini del servizio? E se c'è scritto privacy by design, uno si deve anche chiedere, ok, ma cosa vuoi dire? Perché non è che basta dirlo. Cioè, che significa? Secondo me non significa le cose giuste per questa, almeno non quelle che io mi aspetterei da una cosa privacy by design. Vi lascio un altro po' di musica perché appunto mi sta andando via la voce, devo per forza bere dell'acqua e ci risentiamo poi dopo il pezzo per raccontarsi ancora qualche cosina di tecnicoso più o meno spinto o no. Allora vediamo un po' se la musica mi riesce di farla partire. Maledizione, volevo bere l'acqua. Eccola. Freedom of speech, motherfucker. Okay. Something for the kids. Step in the club smoothly with the L in my hand. Bitches know that I'm a freak, like the Elephant Man. Intelligent plans, fuck a record deal. I want development land with my benevolent clan. And that's the reason that I only trust my fam. 40,000 records sold, 400 grand. Fuck a middleman, I won't pay anyone else. I'll bootleg it and sell it to the streets myself. I'd rather be that than signed and stuck on a shelf. And because of this, executives try to diss me. Racism frozen in time like Walt Disney. And now they say they wanna get me signed to the majors. If I switch up my politics and change my behavior, trying to tell me what the rhyme about over the beat. Bitch niggas that never spent a day in the street. But I repeat that, nobody can hold my reins. I put the truth on tracks, niggas, simple and plain. I guess to America, I'm a disaster. Oh, no. A slave that was destined to own his masters. Independent in every single sense of the word. I say what I want, you fucking little sensitive herb. This is America. I thought we had freedom of speech. But now you wanna try to control the way that I speak. And O'Reilly, you think you a patriot? Yeah, right. You ain't nothing but a motherfucking racist bitch. Full of hatred, pressing a button, trying to eject me. But I don't got no motherfucking deal with Pepsi. No corporate sponsor telling me what to do. Asking me to tone it down during an interview. Trying to minimize the issue, but I'm keeping it large. I love the place I live, but I hate the people in charge. Speaking is hard when you got strings attached. So I'ma say it for you, cause I don't got none of that. And if you didn't understand what I spit at your brain, ayo son, let this little nigga explain. Come on, son, y'all niggas know the way that I do. ImmortalTechnique.com live for you. And I know sometimes it be making you nervous the way I smash puppet rappers that belong in a circus. You motherfuckers just can't compare. Looking for a fan base that's no longer there. I know that you're scared and you're hiding up in the cut. But this is freedom of speech, nigga, tell them what's up. Word, nigga, fuck John Ashcroft. Nigga, fuck Fox News. Fuck those snake ass bitches trying to manipulate your opinion, telling you what to think. Word the fuck up, nigga. Like we invaded niggas cause we wanna free them. You racist motherfucker. You don't give a shit about those people. You can suck my dick. Relax, Tech, relax. Another rum and coke at the bar, nigga. It's my day off. Word up. Fuck. For the kids. For the kids. Rieccoci di nuovo in diretta. Vi volevo dare qualche appuntamento. Per ora mi sa ancora online, nel senso che il 31 maggio di domenica alle 21:30, organizzata dal K100 in collaborazione con l'Hack Club l'IFDU Hack Club di Firenze, e ci sarà una serata dedicata a La questione delle app di tracciamento per Covid-19, quindi nello specifico quella italiana Immuni, ma non solo, sarà più una panoramica di senso, delle problematiche che hanno questi oggetti, e forse sarà anche un momento per fare il punto anche su la questione in generale o almeno per dirvi la nostra sulla questione in generale di questo tipo di utilizzo degli strumenti tecnologici nella pandemia. E, un po' è stato già trattato, diciamo, nelle scorse puntate. In qualche modo lo riprendeva anche io quel comunicato che vi avevo letto prima, no? Che parlava di droni nell'aria, di controllo di vicinato e queste cose qua. E quindi appunto domenica 31 maggio alle 21:30 potrebbe essere un buon momento, forse, per provare un po' a raccontare. O chi vorrà ascoltare o intervenire, penso che la cosa sarà fatta utilizzando una qualche istanza di Jitsi, quindi probabilmente ci si potrà anche quantomeno farsi delle domande in chat, quindi non sarà solo un monologo di un paio di persone per un proloquio di un'ora e mezza sulla questione, e magari poteva essere appunto un buon punto. Vi lascio poi magari nel post che del, de, de, nel podcast, insomma, dei riferimenti più precisi, che stavo guardando appunto sul sito del K100 di Campi Bisenzio. Non figura ancora l'iniziativa, quindi non vi posso dare i termini ancora precisissimi né rimandarvi. Quindi, magari, siccome a pubblicare il podcast ci metto sempre un paio di giorni, attendo magari questa cosa, così poi li posso mettere come riferimento. E altri appuntamenti in realtà di interessanti per ora non ne ho. Speriamo che appunto in questa ripartenza anche delle attività, diciamo, di politica di base, sociali, eccetera, presto potremo rivedere almeno qualcuno fisicamente in qualche iniziativa sensata. Con l'Eclab di Firenze stiamo pensando a qualcosa per l'estate, chiaramente di molto piccolo, nei limiti di quello che si potrà fare, però le nostre iniziative non è che coinvolgevano mai le masse, quindi non è che andiamo a rischio assembramento, ecco. Sono sempre cose molto tranquille, però ci consentono di iniziare a ritrovarsi per parlare anche di queste tematiche, per chi si intrippa con le questioni tecnicose, ecco, magari al posto di farlo da dietro questi microfoni, come si faceva prima, che avevamo delle iniziative che ci permettevano di vedersi di persona, ecco, speriamo al più presto di potervi proporre qualche forma di calendario. Vi anticipo anche che in questo lungo lockdown l'Eclab di Firenze Lift 2 ha partorito anche una fanzine, almeno l'idea di, e quindi forse una delle prossime prime iniziative che proporremo sarà la presentazione di questo frutto della pandemia, sostanzialmente, e nel senso che l'abbiamo fatta perché stavamo tutto a casa e cercavamo di non impazzire troppo, dando una forma anche espressiva al nostro disagio. E questo più o meno è quello che è accaduto. Ve lo anticipo, questa fanzina ha anche un nome, e il nome è Ciusi. Allora, c'è un riferimento ben preciso, che è la Fornero, credo addirittura, che aveva usato questo termine per dire ai giovani: appunto, non siate troppo schizzinosi nella scelta del lavoro. Quindi abbiamo detto, volevamo fotografare, era stata un'uscita veramente felice quella della, insomma, della Fornerosi, e quindi noi ci siamo rimasti fortemente colpiti. Abbiamo detto: noi assolutamente vogliamo chiamarci Ciusi, cioè le persone quelle più schizzinose, e così perché per il piacere di così di fare quelli che fanno gli schizzinosi, sì, così. È nostro, possiamo scrivere gli schizzinosi finché vogliamo, e quindi la fanzine la chiamiamo Ciusi, e sarà una fanzine cartacea, ma anche ci sarà anche formato elettronico, anche perché appunto non sapendo bene che cosa potremmo organizzare, stampare una roba e poi non poterla dare a nessuno sembrava brutto, e quindi la prima versione sarà probabilmente quella online. Sarà un PDF un po' taroccato, nel senso che sarà un esercizio, no, tutto copiato, è mica roba nostra, però sarà un esperimento di formato poliglotta, cioè tipo un PDF che però lo puoi anche unzippare, e dentro magari ci trovi delle cose che sono unzippabili a loro volta, o formati che però rappresentano anche altri e contengono in sé altri formati. Non è difficile da spiegare, chiaramente non è un'idea nostra perché abbiamo copiato tutto, in particolare l'abbiamo copiata da una fanzine di cui vi ho già parlato molte volte, che è Proof of Concept Forget the Fuck Out. Però abbiamo detto: anche noi, se vogliamo fare la fanza, vogliamo anche noi formato poliglotta, perché lo devono avere solo loro, visto che comunque ci sono i tool e la documentazione necessaria per farci anche noi il nostro formato PDF poliglotta. E quindi così, siccome siamo anche Ciusi, abbiamo deciso che ci piaceva quella roba lì, perché l'abbiamo ritenuta sufficientemente raffinata anche per noi persone schizzinose. Vi lascio quindi a un altro pezzettino musicale, che ormai si sono fatte le 8, quindi mi preparo magari le ultime cosine da raccontare, e mi appresto poi a lasciare magari una selezione musicale, visto che non so se riuscirò a parlare ancora un'ora, che già così mi sembra di sta a svenire, e quindi siccome svenire in diretta sarebbe brutto, soprattutto dalla prima puntata nella regia, quella fisica, e allora per preservare la mia persona, o magari smetto un pochino prima e voi non vi arrabbiate con me, ecco. Vediamo un po' se riesco a trovare della musica interessante. Proviamo questa, è un esperimento, la metto solo perché dura 5 minuti in realtà, perché almeno c'ho tempo di riprendermi un attimo. Embedded my heart into this song, so I hope every bar's heard. Before I go, I hope I get to speak to Nas first, to ask him why he sold out, see if his heart hurts. In my name, build one church and one mosque. There's different ways of worship, but there's only one God. I hope people like that I speak straight. And to my family, my mum, most of all, I appreciate more than you could ever think. I love you for everything. And to my foes that I fought in my past, cause everybody has made me. Without it, I wouldn't have lasted through half. Society was never able to mold me. I wanna shout out to everyone who can say that they know me. You see, cause this is what I leave you, an immaculate piece of art for my people to seek truth. I hope Freemasonry's abolished. I hope the chosen one rises, just like the Quran has promised. I hope Jesus Christ returns. I hope corrupt politicians are made to burn, cause how will they ever learn without being force-fed? Listen, imagine every gun they pump into the system for us pawns. We build our own army and reform, reunite. My last words are for a positive fight. Yeah. So if I die, I can say that I was able to write and leave my fans with a last quote. I sit back and sip my last brandy and light up my last smoke. See these words that I give you now, see they're my last hope. I'm nearly 25, I'm feeling like I missed the last boat. but I don't care, and I quote, you're sincerely logical, psycho. Yo, yeah. See, these are my last words. I'm grateful for the life that I live, cause it could have been far worse. My scars burn and I feel like my past cursed, but remember me for teaching people that can't learn. Remember me for what I did. Surrounded by negativity, did my best to be positive. I spoke for those that can't speak. Remember that after my last breath and my heart's last beat, I stayed strong and never prayed on the weak. Never snake my friends, never change for the peas. These are my last words while I pray on my knees. Thank you for my life, I'm so grateful, believe. I turn my back on my brother to learn the meaning of love. If everything goes to plan, I will see him above. With enemies, I ain't keeping a grudge. Cause most people are deceitful and it's easy to judge. With my dying breath, I let them know that I tried my best. Till that organ stops beating inside my chest. I gave 100% with every rhyme I said. But it's not right living life distressed. After the last beat of my heart, you better believe that I'm leaving my mark. And I might never see my CD in the chart, but inshallah my seat can see peace in the rock. I apologize to the people I hurt. It's so hard to explain cause it's deeper than words. But when I'm 6 feet deep in the dirt, make sure every word that I'm speaking is heard. When I die, please don't mourn, cry not for me. When I die, please don't cry, write a song for me. Remember what I did right and what I did wrong. Don't say rest in peace, help me live on. This being a reading of the last statement of James Connolly, I quote, to the Field General Court Martial held at Dublin Castle, May 9, 1916, we went out to break the connection between this country and the British Empire and to establish an Irish Republic. We believe the call we then issued to the people of Ireland was a nobler call and a holier cause than any call issued to them during that World War or having any connection with the war. We succeeded in proving that Irish men are ready to die endeavouring to win for Ireland those national rights which the British government has been asking them to die to win for Belgium. As long as that remains the case, the cause of Irish freedom is safe. Believing that the British government has no right in Ireland. Rieccoci da questo, questo pezzo doveva essere un tributo alla resistenza irlandese e non l'avevo mai ascoltato, sono venuto oggi per la prima volta anch'io. Vi volevo segnalare ecco, che il prossimo sabato probabilmente non andrò in onda in diretta, se riesco mi organizzo prima per registrare. Perché appunto il prossimo sabato qui a Firenze, su Lungarni, ci sarà un flash mob indetto da un po' di sigle sindacali di base, centri sociali e varie realtà di base simili e quindi io volevo personalmente partecipare, ma vi invito anche tutti voi alla partecipazione e appunto dare e quindi darò priorità alla presenza a un evento fisico piuttosto che visto che sono due cioè sono praticamente due passamesi che stiamo tutti chiusi a casa e sarebbe pure di cose da dire, ce ne sono tante, l'abbiamo fatto dai microfoni della radio, però ecco non guasta appunto vedersi anche nelle piazze. Ci sarà comunque la diretta della radio direttamente da lì, quindi magari in qualche modo la mia voce apparirà. Non credo che tra le 7 e le 9 riuscirò a fare Coccoli a Silicio in diretta. Se mi riesce, appunto, però magari registro qualcosa, visto che presumo che il flash mob di cui diciamo l'inizio dovrebbe essere in Ungarno Santa Rosa, però tendenzialmente nel volantino che viene distribuito viene spiegato un percorso che si delinea mettendo l'invito è quello che le persone si dispongono a 2 metri una dall'altra lungo Lungarno, esatto, e quindi tendenzialmente viene delineato il percorso, quindi si presuppone che le persone possono arrivare dove gli è anche più comodo arrivare, cioè non c'è un concentramento preciso ma solo un'indicazione di un punto dove poi le persone che arrivano vengono indirizzate a disporsi lungo questo percorso distanziati, perché questo è quello che ci tocca fare per ora e chiaramente così verrà fatto, cioè questa è una prassi sanitaria ragionevole, e così come ragionevole anche provare a far risentire le proprie voci nelle piazze, anche in eventi in cui si tutela la sicurezza della salute di tutti, però non si rinuncia a appunto una componente anche sociale e di non ci si vergogna di essere in tante e tanti a chiedere qualcosa, ecco. E quindi insomma vi volevo per questo dire che probabilmente il prossimo sabato non ci sarà non sarò in diretta, e se riesco sarò in differita, se non riesco non sarò neanche in quella forma là. Con questo vi direi che per questa sera chiudo e vi rilascio. Prima della metto un po' di musica e poi vi rilascio alla bobina. In realtà non avevo molti altri argomenti, ne avevo ancora un paio, ma me li tengo per le prossime settimane, appunto perché qua inizia a fare un caldo allucinante nella regia, dopo tutto il giorno e tutto il calore me lo sto prendendo io adesso. E quindi ho deciso che desisto. Sono però veramente soddisfatto. Allora, dal tono della voce non si sente perché sono molto stanco anche oggi, però sono veramente contento di essere tornato a trasmettere da una regia degna fuori da casa mia, che non ne potevo assolutamente più, come un po' tutte e tutti credo. Però ecco, oggi era il mio primo giorno, quindi fatemelo dire ogni 5 minuti almeno, poi la prossima volta già mi sono chetato e la smetto. Vi saluto a tutte e a tutti, vi do appuntamento con le dirette di Radio Wombat domani alle ore 7 e come nello specifico appunto o in differita oppure tra 2 settimane. E quindi vi auguro una buona serata, spero che vi siate inventati qualcosa da fare. Io ad esempio no, e quindi sa che tendenzialmente non mi trascorro una tranquilla serata di poca socialità, però apposta ho tenuto la mia trasmissione dalle 7 alle 9 per riuscire a non avere una vita sociale, e questo è quanto. E vi lascio a quell'ultimo, ve lo dico, non ho assolutamente detto che musica ho messo, vi lascio a Kenny Arcana, la Raj, e a poi. Bien loin en arrière, la rage gravée.